la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon martedì 9 di giugno, siamo in diretta qui da Milano, 16:31 primi, anzi 32 primi in questo secondo preciso, e vi dico subito, oltre all'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it per proporre temi, ospiti o voi stessi che raccontate una storia per voi interessante o problematica, ma vado subito all'argomento del giorno per telefonare da parte vostra all'800240024, gli sms come sempre al 349-238-6666. La domanda è secca, nel senso che voglio capire come la pensate sulla posizione assunta dal presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, che immagino lo sappiate, ha ieri detto ai comuni lombardi basta prendere immigrati sul piano di attribuzione delle quote, immigrati, rifugiati, profughi, insomma tutti quelli che a migliaia in questi giorni ancora si aggiungono, pescati nel Mediterraneo da navi anche non di nazionalità italiana, perché visto che abbiamo navi militari in aggiunta, spagnole, britanniche, tedesche e così via, il presidente della Regione Lombardia ha detto basta in Lombardia. Poiché il piano di attribuzione delle quote è direttamente dal governo dei comuni, il presidente della Regione Lombardia ha detto e se i comuni lombardi, magari con un'amministrazione diversa da quella di centrodestra che governa la Lombardia come regione, invece rispondono sì, io vi levo gli incentivi. Questa è la posizione. Stamattina il presidente della Regione Lombardia, lo avete forse visto sui giornali o sulle agenzie, ha chiesto, quindi in maniera meno imperativa, però ha chiesto al prefetti di farsi, per così dire, emanazione territoriale del governo, di farsi carico di segnalare al governo che la posizione è quella espressa, cioè che la Regione Lombardia ritiene di non dovere impegnare le sue strutture, i suoi comuni, i suoi soldi con immigrati aggiuntivi come quota di ripartizione. A questa posizione si è collegata anche una posizione analoga, anche se formalmente non con iniziative altrettanto formali, da parte del Veneto e della Veneto Zaia leghista, il presidente, e della Liguria appena vinta da Toti per Forza Italia. Vi chiedo cosa ne pensate, ma l'argomento della puntata è in realtà approfondire dal punto di vista tecnico formale quali siano le conseguenze vere o ipotetiche di un atto di questo tipo. Sui giornali di oggi ovviamente avete trovato delle prese di posizione molto polemiche nei confronti di Maroni, e in buona sintesi i giornali nazionali hanno sentito o il presidente dell'ANCI, cioè Piero Fassino, il sindaco pidino di Torino, per esempio il Messaggero, oppure Repubblica La Stampa, hanno sentito il coordinatore della conferenza Stato-Regioni, e cioè il presidente di Regione Piemonte, PD, Chiamparino. Fassino ha esposto una tesi per la quale, seccamente leggo, non appartiene alla titolarità dei poteri dei presidenti di regione decidere quale politica di accoglienza si debba fare. I sindaci rispondono in questo, cioè nel programma nazionale di ripartizione delle quote, direttamente al governo, e richiesto di una domanda precisa il presidente dell'ANCI, il sindaco di Torino, ma se lei fosse un sindaco della Lombardia come reagirebbe di fronte al presidente della Regione Lombardia che dice che se lei dice sì al governo su nuovi immigrati gli taglia gli incentivi? La risposta di Fassino è vero, esistono anche fondi regionali che vengono distribuiti sulla base di disponibilità di bilancio e di politiche che riguardano tutti, però vorrei proprio vedere un atto formale di un presidente della regione che mette per iscritto che a quel punto scattano dei disincentivi, perché io come comune, a nome della mia amministrazione, come sindaco, accolgo invece la proposta di attribuzione di una quota aggiuntiva di immigrati secondo il piano e la richiesta del governo. Sarebbe un atto, dice Fassino, automaticamente impugnabile, nullo, illegittimo. Invece Chiamparino, il presidente del Stato Regioni, la mette più sulla politica, per così dire, dice il governo non deve premiare le regioni più egoiste, perché dall'altra parte Il governo risponde a questa ipotetica disincentivi, cioè tagli degli incentivi regionali ai comuni che accogliessero immigrati aggiuntivi, con una controproposta che invece è quella: noi ve ne diamo di più ai comuni che li accolgono, perché l'ANCI mesi fa aveva formalizzato una proposta al governo per il quale si allenta il patto di stabilità ai comuni che accolgono gli immigrati. In ogni caso si dà un prezzo agli immigrati, come devo dire, che è una cosa che a me un pochino colpisce. Da una parte un prezzo negativo per chi non li vuole, dall'altra un prezzo positivo di incentivo per il governo. Ma la domanda a questo punto diventa, al di là e prima della polemica politica, quello vedremo le vostre opinioni, che cosa davvero nel nostro ordinamento è legittimo che un presidente della regione, con la sua amministrazione di un colore politico, possa fare nei confronti di comuni, sindacando la volontà dei comuni di accogliere o meno, visto che sono loro i destinatari delle quote ripartite dal governo, immigrati in più? È configurabile nel nostro ordinamento un atto simile e sarebbe pienamente legittimo, oppure sarebbe legittimo ma sindacabile di fronte a un giudice amministrativo, oppure semplicemente no, non può far nulla al di là della presa di posizione politica, perché i comuni in questo, come dice Fassino, rispondono direttamente al governo e quindi la regione non si può mettere di mezzo? Ecco, io volevo semplicemente che qualcuno che è esperto di diritto vi spiegasse se la polemica è puramente politica o se davvero esistono dei margini di intervento disincentivante come quello ipotizzato con molta energia dal presidente della Regione Lombardia. Allora ho chiesto per spiegarcelo appunto al professor Francesco Pizzetti, che insegna diritto costituzionale a Torino ed è docente alla LUIS, che ha scritto anche nel 2014 un libro proprio dedicato alla riforma degli enti territoriali, alle città metropolitane, alle nuove province, all'unione dei comuni. Giuffre è l'editore, se siete interessati, e di spiegarci davvero come stanno le cose dal punto di vista formale. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, professor Pizzetti. Buongiorno, come stai? Allora, lei che dice? Nel nostro ordinamento i presidenti delle regioni hanno facoltà e piena legittimità di intervenire nei confronti di comuni che non la pensassero come loro nella loro regione? Direi che la lettera del presidente Maroni ai prefetti è priva di fondamento giuridico nel suo contenuto. D'altra parte non cita neanche norme specifiche che autorizzerebbero il Presidente della Regione ad assumere quella posizione. Quindi esprime solo un'opinione politica, non è un... Beh, un'opinione, contenuto politico, non ne vedo il fondamento giuridico. Certamente il Presidente della Regione non ha il potere di impedire ai prefetti di adempiere a delle direttive governative. Quanto al rapporto con i comuni, lo stesso, bisognerebbe prima capire che cosa pensa di fare il presidente Maroni. Certamente non può la regione diminuire le quote trasferite dallo Stato ai comuni al fine di dare accoglienza a queste, agli migranti. Mi sembra in sostanza, almeno allo Stato, un atto squisitamente politico privo di fondamento giuridico. Le faccio un esempio concreto, perché il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che è del PD, ha subito detto ieri, quando è decollata la polemica dopo la prima dichiarazione molto muscolare del presidente Maroni, dicendo a Bergamo, che naturalmente sta in Lombardia, non ci pensiamo minimamente ad allinearci alle posizioni del presidente della regione. Ipotizziamo, professor Pizzetti, che a quel punto, di fronte a uno sfrangiamento, per così dire, della posizione di comuni importanti, Lombardia, Bergamo è un capoluogo, e il governatore della Lombardia, il presidente della giunta regionale lombarda, per meglio dire, visto che il governatore non c'è nel nostro ordinamento, decidesse davvero di porre in essere atti amministrativi che graduano, per così dire, il trasferimento di risorse dalla regione Lombardia a quel comune in particolare. Questo tipo di atto, secondo lei, è caduto il collegamento telefonico, la domanda che gli faremo appena si ripristina il collegamento è se quel tipo di atto è automaticamente illegittimo o semplicemente impugnabile di fronte a un giudice amministrativo. Nel frattempo però ci sono vostre telefonate e allora cominciamo a sentire la vostra opinione. Francesco da Frosinone, come la pensa? Buonasera, io sono Francesco da Frosinone e come la pensa? È semplicissimo, io siccome la trasmissione è orientata sul discorso di come la pensate, io la penso in questi termini. Certo. Se io fossi sindaco di un qualunque comune della regione Lombardia, avrei già formalizzato una denuncia penale, poiché quella è estorsione, quella si chiama estorsione. Un momento, una denuncia penale nei confronti di chi? Beh, è chiaro che è ovvio che non, del presidente della regione. Certo, perché è nei confronti di chi l'ha pronunciata, perché quella è una dichiarazione estorsiva che induce a un certo momento un pubblico ufficiale, che può essere un qualunque sindaco, ad astenersi da atti del proprio ufficio, ed è un delitto a consumazione istantanea, a mio modesto avviso. Quindi configura una minaccia vera, tanto che a quel punto un pubblico ufficiale come il sindaco avrebbe anche la facoltà, secondo lei, di procedere a un esposto per minaccia nei confronti di Maroni. Ho capito bene, Francesco? Sì, sì, esatto. Se mi è consentito, dovrebbero essere contenti i sindaci, perché potrebbero essere parte lesa e quindi costituirsi addirittura nel giudizio penale e probabilmente pretendere anche un risarcimento del danno, tutto qui. Vabbè. Quindi potrebbe essere anche una fonte di arricchimento del comune. Questo non lo so, però io diffido della, diciamo, per così dire, dei responsabili amministrativi a diversi livelli che si regolano le questioni di fronte ai giudici. Ormai sta diventando una prassi anche nei partiti, nel PD e così via, e non solo nel PD. E secondo me è semplicemente la fotografia del fatto che viviamo in un ordinamento un po' caotico e con politici dalle idee un po' confuse quanto ai poteri amministrativi. Si è ripristinato il collegamento col professor Pizzetti. Allora, professor Pizzetti, le stavo chiedendo, facendo l'esempio di Bergamo, ma ove Maroni a quel punto davvero invece procedesse a un atto amministrativo di fronte a comuni capoluoghi come Bergamo, Lombardia, che dicono no, noi comunque diciamo sì al governo, se il presidente di una regione, la giunta di una regione a quel punto discriminasse l'accesso a trasferimenti da regione a quel comune per motivi di questo tipo, quell'atto sarebbe, a suo giudizio, sia pure è un giudizio ipotetico, visto che bisognerebbe averlo in mano quell'atto per giudicare, però quell'atto sarebbe automaticamente illegittimo o semplicemente sindacabile di fronte a un giudice amministrativo, secondo lei? Beh, come ha detto lei, bisognerebbe prima avere degli atti giuridici. Finora abbiamo di tutto soltanto una lettera ai prefetti, che ha un contenuto certo non coerente con i poteri del Presidente della Regione. Di fronte a un atto giuridico bisognerebbe vederne il contenuto e vedere qual è il tipo di norma che il Presidente invoca. La risposta è che, per quanto mi riguarda, allo Stato difficilmente posso immaginare un atto legittimo, soprattutto se questo atto dichiarasse di non trasferire i fondi ai comuni per il motivo di cui stiamo parlando. Sì. Però, ripeto, bisognerebbe inventarsene altre, per così dire, no? Insomma, se devo dire proprio molto sinceramente, penso che il presidente Maroni stia facendo delle dichiarazioni di contenuto politico, non di contenuto giuridico. D'altra parte faccio osservare che non ha citato nessuna norma nella lettera mandata ai prefetti. Dal punto di vista giuridico io non riesco a immaginare quale possa essere il fondamento e quindi la legittimità di atti come quelli indicati o accennati nelle dichiarazioni del Presidente. Un'altra domanda, questa ci viene dagli ascoltatori. Per quanto riguarda invece le competenze nel nostro ordinamento riguardo alla ripartizione di flussi di profughi, rifugiati, eccetera, eccetera, quindi un rapporto diretto, per così dire, tra il governo che decide la ripartizione, ovviamente sentite prima i comuni e così via, e i comuni che sono i destinatari di queste quote di ripartizione. La domanda che viene dai nostri ascoltatori è: in quel caso i comuni che sono destinatari di quote, i comuni possono dire no al governo oppure no, professore? Ma guardi, questa è tutta una normativa che istituisce un rapporto tra Stato, Regioni e Comuni di tipo cooperativo, legata alla, come dire, alla visione che la Corte ha sempre difeso di una leale collaborazione tra i diversi livelli territoriali di governo. La Corte Costituzionale? Sì, beh, sempre stata la linea della Corte. Ora, nella sostanza, queste sono competenze specificamente proprie dello Stato e che lo Stato esercita adottando le modalità che ritiene più opportune. L'eventuale rifiuto da parte di un comune di accogliere sul suo territorio un flusso migratorio dovrebbe avere delle motivazioni giuridiche particolarmente forti, solide e motivate per poter superare il controllo di legittimità. Direi oggi come oggi no, i comuni ovviamente devono apprestare le loro strutture, ovviamente c'è bisogno della loro collaborazione, perché bisogna creare dei centri di accoglienza, bisogna adottare tutta una serie di misure che consentano al fenomeno migratorio di convivere con la comunità territoriale, ma un vero e proprio potere giuridico di respingere l'assegnazione dei prefetti a quella del territorio nazionale degli immigrati mi pare non sia possibile. Va bene, allora intanto ringraziamo il professor Pizzetti per questi pareri pro veritate che ci ha dato su come funziona il nostro ordinamento e qual è la reciproca sfera di competenza. Rapporto cooperativo, secondo la sentenza della Corte Costituzionale, significa comunque che ovviamente un confronto e una convergenza ci deve essere. Tra un minuto torniamo dopo l'informazione stradale con le vostre telefonate. La versione di Oscar. Come immaginavo, tornate in diretta, una raffica di opinioni, le più varie e diverse, sugli sms. Alcuni mi insultano dicendo che ho pescato quello che vuole denunciare, invitare a denunciare, ma non ho pescato, non so, guardate che le telefonate non le scegliamo noi, c'è un centralino e mi vengono passate, quindi non è proprio, non è così. Sentiremo le altre che ci sono dopo con le vostre opinioni. Diciamo che per il momento gli sms si dividono in due: c'è chi è molto scettico anche sul premio dato ai comuni, molto scettico, ci sono altre che giustamente distinguono, cioè Maroni è legittimamente, fa una polemica politica coerente al suo punto di vista, però di qua a minacciare i comuni nel nostro ordinamento ce ne passa, e su questo mi pare che c'è una specie di maggioranza, sia pur relativa, tra gli sms. Sentiamo le telefonate. Mirko da Milano, prego Mirko. Buongiorno Giannino. Buongiorno. A me non interessa quello che ha detto Maroni, francamente, non per essere cinico. Io vorrei sentire dal governo quanti clandestini devono entrare in Italia, 1 milione, 5 milioni, 10 milioni. Dopo di questo si potrà discutere le quote, le ripartizioni. Allora, se il governo dice ne entrano 500.000 all'anno, butto un numero a caso, sì, e ne arrivano 700.000, gli altri 200.000 cosa fa? Li butta a mare? Che politica vuole adottare il governo? Io a questo voglio una risposta. Io credo sia questa la base di una discussione. Dopodiché si va a vedere cosa fare, come suddividerli, come aiutarli o come rimandarli indietro, se si possono rimandare indietro, cosa fare. Ma qui si sta facendo, mi pare, una regola, si vuole adottare una regola, senza sapere i numeri che il governo decide di utilizzare, di sopportare, di accogliere. E io non ho ancora sentito un numero, una cifra di quante persone possono entrare annualmente in Italia. Ne possono entrare 1 milione, ne possono entrare 5 milioni, ne possono entrare 10.000. A quel punto, entrati questi numeri, cosa succede degli altri? E anche su questo non c'è stata risposta. Allora Mirko propone un criterio di ragionevolezza, e io devo dire la verità, questa cosa di Mirko è quella che io testualmente condivido in maniera integrale. La mia opinione è che l'Italia in Europa, se non voglio criticare, però ha una colpa, nel senso che ripassando a questo dispositivo militare con più paesi, comunque noi non siamo riusciti a portare a casa la compartecipazione con gli altri paesi europei, di quelli che loro salvano il Mediterraneo insieme alle nostre, ai nostri mezzi militari, e poi ci depositano in Italia. Ecco perché le quote che voi avete letto sono del tutto teoriche e non riguardano quelli che poi entrano in Italia. A questo noi reagiamo, noi identificandoli tutti, prendendogli le impronte e chiudendo gli occhi al Brennero. Ed è un'altra cazzata, se mi permettete, perché nel frattempo ce ne perdiamo decine di migliaia di cui non sappiamo che fine fanno in Italia. Questa è la fotografia. Secondo me Mirko, quando dice dobbiamo fissare un numero massimo e su questo trattare brutalmente con l'Europa, fa un richiamo alla ragionevolezza. Non so chi del governo pensi che invece la condizione attuale sia sostenibile. Ieri il comandante della Bulwark, che è la porta elicotteri britannica, è la nave più grande attualmente militare nel dispositivo mediterraneo, ha detto: la nostra stima dei servizi britannici è che ci sono 500.000 persone sulle coste libiche in attesa di venire in Italia. E Mirko, secondo me, c'entra la questione. Rispondo ad altri che dicono: non abbiamo capito dove stanno di più in Italia. A seconda che voi guardiate il flusso degli immigrati sistemati nell'ultimo anno, numerico, o la proporzione sulla popolazione, cambia, perché è vero che la Lombardia è la terza regione per assorbimento, ma se andate sulla voce.info trovate che se usate un criterio del immigrati distribuiti rispetto alla popolazione in proporzione, troverete che la Lombardia ospita nei centri di accoglienza o in altre strutture temporanee 60 profughi ogni 100.000 abitanti, 60, il Veneto 50, la Liguria 80 e la Sicilia, tanto per essere chiari, 270 ogni 100.000 abitanti, la Calabria 240. Se guardate i numeri assoluti e non la proporzione sulla popolazione, le cose cambiano. Secondo me il criterio giusto è guardarle sul totale della popolazione, e quindi in quel caso la propria tessera Lombardia numericamente non sta in piedi, tra l'altro. Poi, altra cosa ancora diversa è che capisco politicamente dire: non li voglio e basta, ecco, perché ho pochi soldi e li voglio concentrare sugli italiani. Questa è la posizione della Lega. Sentiamo come la pensa Marco da Torino. Prego, Marco. Buongiorno. Ma io sono sostanzialmente d'accordo con quanto ha detto sia Fattino che Chiamparino, quindi, come dire, se non altro sono d'accordo con il mio sindaco e cioè il mio presidente di regione. Trovo invece assurda e, mi lasci dire, criminale in un certo senso la dichiarazione di Maroni, dove sostanzialmente, oltre a speculare su un tema come l'immigrazione, ma quale, come dire, la Lega ci ha abituato ormai da 20 anni, trovo anche che sia un controsenso rispetto a quello che la Lega stessa dice da 20 anni, cioè di promuovere il federalismo, le autonomie degli enti locali. Qui addirittura si arriva al paradosso per che cui il Presidente della regione dice a comuni che la pensano diversamente non dovete farlo. No, chiarissima posizione. Stefano da Parma come la pensa? Rapido però, Stefano. Rapidissimo. Io credo invece che con la giurisprudenza non andiamo da nessuna parte. Lo Stato italiano non è pronto ad accogliere quel flusso migratorio che si sta avvicinando ai nostri confini. Un altro punto fondamentale è che questi immigrati vengono qui e si lamentano perché giustamente vengono trattati allo sbaraglio, e poi siamo noi cittadini, come i cittadini, a subirne tutte le conseguenze. Quindi insomma un pessimismo di fondo, ma un giudizio molto critico sulla nostra capacità di assorbire centinaia di migliaia di persone. Tante altre telefonate, sms, il tempo è finito, continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.